Euro Reportage. Il voto scozzese terrà Londra nella UE? Di Francesco De Remigis. La Gran Bretagna respira, si torna a lavorare insieme per un futuro comune, dice il premier David Cameron dopo l'esito del referendum scozzese che ha confermato l'unione del regno. E con lo stesso brio con cui Frédéric Chopin scriveva le sue danze scozzesi, Downing Street guarda avanti. La promessa fatta per evitare la secessione, dare maggiori poteri alla Scozia, autonomia decisionale su sanità e welfare, è ancora in fase di studio. Così, in attesa di chiarire in che misura sarà potenziata la devolution di poteri da Londra e Edimburgo, Bruxelles tira un sospiro di sollievo. L'esito del referendum, per quanto importante, è un dato superato. Gli stessi leader indipendentisti guardano avanti a quelle elezioni che l'anno prossimo scriveranno i nuovi equilibri a Westminster, dove lo Scottish National Party punta a trasformare il 1.600.000 sì alla secessione da Londra in preferenze e seggi. Ecco allora la domanda: saranno i voti di Edimburgo a mantenere la Gran Bretagna nell'Unione Europea? Scotland voted for a stronger Scottish Parliament. Il premier inglese David Cameron ringrazia gli scozzesi e ha già annunciato la creazione di una commissione ad hoc per studiare le tecnicalità di una devolution, le cui conclusioni dovrebbero essere presentate in gennaio. Ma i politici inglesi che hanno fatto campagna per trattenere la Scozia nel Regno Unito devono ora fare i conti con il post-referendum e con i sondaggi delle prossime elezioni, in cui ci potrebbe essere una sorpresa proveniente proprio dalla Scozia. Questo è Neil Gordon, 35 anni, general manager dell'Harris Lombard di Edimburgo. Non ho mai votato prima di questo referendum, ma questa campagna referendaria ha avvicinato molti di noi alla politica e proseguirò su questa strada. Lo Scottish National Party, portavoce del referendum sulla secessione, ha nel frattempo quasi raddoppiato le adesioni. 4.000 quelle pervenute nelle 36 ore dopo il referendum. Molti sostenitori del Labour, che Edimburgo vanta da sempre uno dei più grandi bacini di consensi, si sono già uniti allo Scottish National, prima nella battaglia sul referendum per l'indipendenza e ora per quella corsa alle elezioni politiche inglesi, in cui il partito di Alex Salmond e Nicola Sturgeon si prepara a trasformare il 1.600.000 sì in preferenze e seggi. Come spiega la vice premier scozzese Sturgeon, pronta a succedere a novembre al premier dimissionario Salmond, il sì alla secessione va di pari passo con un altrettanto convinto sì, quello sul mantenimento della Gran Bretagna nell'Unione Europea. Essere parte dell'UE ha portato a un aumento del 55% degli scambi commerciali con gli altri paesi membri e un forte aumento degli investimenti dall'estero. E in una Scozia che non ha ottenuto la secessione e l'autonomia di gestire le risorse petrolifere dei mari del nord, si punta ora a non perdere quei pezzi di mercato europeo che vanno dalle esportazioni di whisky agli scambi energetici. Anche la City di Londra ringrazia. Se si lasciasse l'Unione, Londra dovrebbe negoziare un accordo di libero scambio con l'UE e sottostare a una serie di regole senza più avere voce in capitolo sulla loro approvazione. La Gran Bretagna, fuori dall'Europa, dovrebbe siglare una lunga serie di accordi commerciali bilaterali, spiega un analista della City, che negli anni ha visto crescere gli investimenti dall'estero. Anche la CBI, la Confindustria inglese, sottolinea quanto l'economia britannica sia legata a doppio filo con l'Europa, contribuendo a far fare passi in avanti anche all'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. E il commissario europeo al commercio estero, già politico fiammingo unionista, Karel de Gucht, non esita a parlare di un cataclisma evitato. Se si fosse verificato in Scozia un voto pro secessione, spiega, ci sarebbe stato uno smottamento politico delle dimensioni del crollo dell'Unione Sovietica. Ecco allora che il referendum sull'indipendenza della Scozia ha già partorito un primo paradosso. Le urne scozzesi hanno consegnato al premier inglese David Cameron una Gran Bretagna ancora unita e all'Unione Europea il suo principale alleato per evitare che il prossimo Parlamento di Westminster possa acconsentire alle richieste degli euroscettici inglesi. We've got a referendum coming up at some point in the distant future in Britain. Nigel Farage, leader dell'UKIP e del fronte anti-Bruxelles a Londra, definisce l'uscita dall'Unione Europea un obiettivo da perseguire fino in fondo. Perfino Cameron e i suoi deputati conservatori dicono di voler far decidere i cittadini entro il 2017, proponendo un referendum. So the next Conservative Manifesto in 2015. Così è Bruxelles a coccolare una Scozia ancora inglese, da considerare parte di una nazione, la Gran Bretagna, che pur mantenendo la sterlina è oggi uno dei partner fondamentali per l'Europa, quella politica ma anche quella del mercato. I welcome the decision of the Scottish people to maintain the unity of the United Kingdom. Questo è il discorso del presidente uscente della Commissione europea, Manuel Barroso, dopo l'esito del referendum. Parla di collaborazione con le istituzioni scozzesi e non dimentica di ricordare l'importanza strategica della Scozia e delle sue risorse energetiche nei mari del nord, che restano condivise con Londra, ma non fa male ricordare in quale area della Gran Bretagna sono ubicate, e cioè in Scozia. Il Regno Unito è e resterà un importante membro dell'Unione Europea a beneficio di tutti i cittadini e degli Stati membri dell'Unione, dice sollevato anche il presidente uscente del Consiglio Europeo, Herman Van Rompuy. E dopo aver trattato gli scozzesi come un pericolo, sembra quasi che quei 5 milioni di abitanti che sono rimasti sotto la regina e che in maggioranza sono e restano pro-Unione Europea siano non solo da rispettare, ma da considerare perfino degni di attenzione e supporto. A Edimburgo, tra chi ha votato sì all'indipendenza, c'è un certo ottimismo per l'annunciato mantenimento delle promesse fatte dai politici inglesi in materia di devolution. Questa è Meghan, che ha votato sì convintamente all'indipendenza e, anche se è uscita sconfitta come tanti altri scozzesi dal referendum, è convinta che oggi Londra non potrà tirarsi indietro dal concedere nuovi poteri alla Scozia. Lei, come altri, guarda Bruxelles come un alleato affinché il conservatore Cameron, il laburista Ed Miliband e il liberal democratico Nick Clegg mantengano le loro promesse. E sempre dalla City si fanno sempre più insistenti le voci delle banche e dei giganti finanziari che si sono rifiutati di garantire che rimarranno in Scozia dopo la vittoria degli unionisti. L'assenza di garanzie su quelli che sono considerati possibili aumenti delle tasse dovute alla devolution stanno preoccupando non poco i colossi finanziari della City. E questo è un altro punto su cui ragionare nei prossimi mesi, soprattutto perché il leader indipendentista Alex Salmond, premier dimissionario, seppur in uscita dalla leadership del partito, nel suo ultimo discorso ricorda che la battaglia per ottenere più poteri e quindi maggiore autonomia finanziaria per Edimburgo è soltanto all'inizio, perché quella Scozia che ha ispirato Chopin e giura fedeltà all'Unione Europea è anche la stessa che vuole tenersi la sterlina stampata su banconote diverse da quelle del Regno e insistere sulla maggiore autonomia finanziaria. The position is this: we lost the referendum vote, but Scotland can still carry. Questo è il discorso del leader indipendentista Alex Salmond, premier dimissionario di Edimburgo, che, annunciando una nuova fase per il suo partito, rivendica la battaglia per l'indipendenza, assicurando che gli scozzesi non si accontenteranno di qualche piccola concessione. The campaign continues and the dream shall never die. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.